Giornale radio del Friuli Venezia Giulia. La crisi della manifattura a Trieste, è partito l'iter per i licenziamenti della U-Blocks, a rischio 200 posti di lavoro. In commissione regionale il caso di CPR Cara di Gradisca, il centro per i rimpatri è pieno a metà, rassicura la giunta. La previsione sul PIL regionale, secondo le elaborazioni della Svimez, poco sopra la media italiana per il 2025, mentre calano i consumi. Il punto sul settore dell'acquacoltura nella rassegna aperta in fiera a Pordenone, l'Università di Udine presenta 3 progetti per allevamenti più sostenibili. Sorveglianza ambientale, un protocollo d'intesa biennale siglato in Capitaneria di Porto a Trieste eviterà le sovrapposizioni fra enti e forze dell'ordine. Pallavolo, una nuova chance per la CDA Talmassons che stasera ospita Novara per il massimo campionato femminile. Nel basket di A2 la Gesteco gioca a Cantù. Sono le 12.31, ancora buona giornata da Giampaolo Mauro e Lara Zani. In apertura ai temi dell'occupazione, un messaggio di posta certificata per avviare la procedura di licenziamento di 200 persone, una brusca svolta nella crisi della U-Blocks di Sgonico che secondo il liquidatore avrebbe subito nell'ultimo periodo perdite per 35 milioni. L'azienda di telefonia potrebbe mandare a casa 140 lavoratori entro 3 mesi, gli altri al termine di una serie di impegni produttivi. Domani una conferenza stampa dei sindacati. Con una PEC indirizzata a Regione, sindacati e Confindustria è stata ufficialmente aperta la procedura di licenziamento collettivo per circa 200 lavoratori della U-Blocks di Sgonico. La società, leader nella produzione di prototipi di apparecchiature per le telecomunicazioni, avrebbe subito, secondo il liquidatore incaricato, una perdita di oltre 35 milioni di euro. I primi 140 lavoratori perderebbero il posto di qui a 3 mesi, gli altri via via con l'esaurirsi delle prestazioni legate agli impegni precedentemente presi. A seguito dell'avvio della procedura di licenziamento collettivo, il sindacato USB ha convocato una conferenza stampa per domani. Noi siamo qui davanti alla sede della U-Blocks con Alessandro Olivo della RSU. Lei lavora qui da 7 anni, una competenza però maturata negli anni in questo territorio sempre sul profilo tecnico sulle telecomunicazioni, e dice: questo è un patrimonio che va salvaguardato per il territorio, perché già 5 lavoratori si sono dimessi e sono andati spesso altrove, fuori regione. Certo, noi siamo appunto quasi 200 persone molto competenti dal punto di vista tecnico. Ci siamo formati negli anni, in quasi 20 anni, quelli che sono arrivati prima ci sono aggiunti dei giovani, e si è creato un gruppo veramente, anche dal punto di vista umano, molto importante. Disperdere queste competenze è veramente un danno per la comunità, per l'economia, non solo del territorio ma anche dello Stato italiano, secondo me. Paolo Giacchin, lei lavora qui da 14 anni e dice una soluzione però c'è, non è così negativo. Allora, la possibilità, considerando l'elevato capitale di esperienze, di conoscenze che c'è all'interno dell'azienda, è sicuramente importante e quindi potrà essere utile a moltissime aziende. Ci sono già dei contatti in corso, ora ci aspettiamo che l'azienda supporti questo tipo di attività insieme alle istituzioni. Trieste, Anna Vitaliani, TGR Friuli Venezia Giulia. Un altro versante della manifattura triestina in crisi è quello della Flex, sulla quale un nuovo tavolo si sta svolgendo al Ministero dell'Industria e del Made in Italy. La fabbrica triestina da inizio febbraio è controllata dal fondo tedesco Faircap, ma non c'è chiarezza sulla sorte dei 350 lavoratori impiegati. L'incontro è cominciato intorno alle 11. Ora la politica. In commissione regionale questa mattina si è parlato del centro per il rimpatrio e del centro di accoglienza per i richiedenti asilo di Gradisca. Spunto di partenza, una interrogazione di 1 anno e mezzo fa. Situazione preoccupante, ma non più un'emergenza. E questa la posizione della giunta regionale sul CAR e sul CPR di Gradisca di Sonzo. L'assessore regionale alle autonomie locali Roberti, in consiglio regionale, ha risposto all'interrogazione presentata da Laura Fasiolo del Partito Democratico in merito alla situazione dei 2 centri di accoglienza e di permanenza. Interrogazione datata, viene subito segnalato, perché risale all'agosto del 2023, quando la situazione era diversa e molto più complicata. Al CAR erano ospitati circa 580 migranti per una capacità di 303. Ora, a febbraio 2025, sono 326, ancora in eccesso, ma con cifre più gestibili. Al CPR, dove gli ospiti sono detenuti e non in stato di libertà, la capacità è di 150, ma il numero è di 81. Come ricorda Roberti, il centro non è mai stato riempito per ragioni di sicurezza. L'ultima rivolta, con gravi disordini e scene di devastazione, è avvenuta a gennaio. Negli scontri sono rimasti feriti 10 agenti di polizia. Anche le ricadute sulla città si sono attenuate nel tempo. Già da novembre del 2023 la Regione aveva stanziato 100.000 euro per un servizio di vigilanza privata fuori dal CARA, ricorda Roberti, e ad allentare la situazione è intervenuta anche la sospensione di Schengen, che ha dimezzato gli arrivi. Nel 2023 erano circa 20.000, nel 2024 sono stati intorno ai 10.000. Roberti si dice non preoccupato anche nei confronti della seconda interrogazione, opera di Pellegrino di AVS, che riguarda le manifestazioni di quest'estate di Forza Nuova a Pordenone. Numeri troppo piccoli, ha detto, ricordando che erano in 7, per destare inquietudine. Trieste, Dario Ronzoni, TGR Friuli Venezia Giulia. Il ministro della Difesa Guido Crosetto sarà sabato a Gorizia per una visita alla città che con Nova Gorizia condivide il ruolo di capitale europea della cultura. Crosetto sarà accompagnato dal capo di Stato Maggiore della Difesa, generale Luciano Portolano. L'esponente del governo sarà dapprima in municipio per firmare il libro d'onore del comune. A seguire in programma un collegamento con il Libano e con il generale Nicola Mandolesi, che comanda la Brigata Pozzuolo del Friuli in missione di pace nel paese medio orientale. Alle 11 Crosetto seguirà la cerimonia di riapertura del Sacrario Militare di Oslavia dopo il restauro conservativo. Il Sacrario custodisce i resti di oltre 57.000 caduti della Grande Guerra. I temi dell'economia, è stato pubblicato il rapporto della Svimez sull'andamento delle regioni italiane. In Friuli Venezia Giulia si prevede un leggero calo del PIL, più marcato quello dei consumi. Anche nel 2024, così come nell'anno precedente, in Italia è il PIL prodotto dal Mezzogiorno a crescere di più di quello di un nord preda della crisi dell'industria e della domanda estera, in particolare tedesca, più 0,8% contro più 0,6%. A dirlo sono i dati del report REF Svimez, dove vanno le regioni italiane, che illustrano però come già dal 2025 la tendenza tornerà ad invertirsi. Per il biennio 2025-2026 l'Associazione per lo sviluppo dell'industria nel Mezzogiorno prevede inoltre per il PIL italiano nel suo complesso una crescita sotto l'1%, più 0,7% nell'anno in corso, più 0,9% nel prossimo, fanalino di coda a livello europeo proprio assieme alla Germania. Guardando più da vicino al Friuli Venezia Giulia, secondo lo Svimez nel 2025 il PIL regionale salirà dello 0,79% e dello 0,74% l'anno successivo. I consumi delle famiglie invece aumenteranno dell'1,2% l'anno prossimo e dello 0,77% nel 2026, mentre gli investimenti, già calati nell'anno appena concluso, continueranno a scendere dello 0,45% nel 2025, mentre ripartiranno con un più 1,1% nel 2026. Infine l'export, dopo il crollo del 2024 con un meno 2,2%, è previsto ripartire con un più 0,4% nel 2025 e un più 0,5% nel 2026. Daniele Lettig, TGR, Friuli Venezia Giulia. A Pordenone è in corso la prima giornata di Aqua Farm, una delle più importanti rassegne dedicate all'acquacoltura. Tra i protagonisti la Regione e l'Università di Udine, quest'ultima con la presentazione di una serie di progetti per il miglioramento della sostenibilità degli allevamenti ittici e della maricoltura. Acquacoltura, l'alternativa sostenibile allo sfruttamento ittico. Aqua Farm, la fiera di Pordenone, raccoglie le possibili soluzioni per la produzione degli alimenti in acqua. Quelle dei progetti dell'Università di Udine si concentrano sulla salvaguardia del mare Adriatico. Sono transfrontalieri, coinvolgono Slovenia e Croazia e puntano al miglioramento degli allevamenti. Il primo riguarda le trote in un'ottica di produzione circolare, un sistema che permette il riuso delle risorse idriche in un ciclo controllato riducendo gli sprechi. Si concentrerà su allevamenti presenti in Friuli Venezia Giulia, Veneto e Slovenia. Gloriana Cardinaletti, il progetto si chiama Circular Rainbow. Noi miriamo a trasferire o perlomeno a favorire quello che è la migrazione degli attuali allevamenti verso una tecnologia a recircolo che mira a preservare e a risparmiare la risorsa idrica, ma nel contempo a ridurre quelli che sono gli effetti degli impatti ambientali dovuti ai reflui dei zootecnici degli impianti ittici. Il secondo utilizza i droni marini per monitorare zone come il Golfo di Panzano, la Laguna di Marano, il mare al largo di Ancona, quello di Rovigno e Sebenico. Il drone osserverà le comunità algali fondamentali per gli ecosistemi costieri. E di Piasentier, Università di Udine. E quindi può dare delle indicazioni su quella che è l'evoluzione del pascolo, cercare di capire quali sono le ragioni per le quali si assiste ad una contrazione in questo momento della superficie e quindi offrire dei modelli anche di intervento per cercare di apportare, oltre al monitoraggio, anche delle soluzioni. Il terzo punta su un sistema di valutazione del rischio basato sull'intelligenza artificiale e il monitoraggio e la gestione in tempo reale degli allevamenti. Pordenone, Sebastiano Franco, TGR, Friuli Venezia Giulia. Un dossier dell'Associazione Costruttori e Edili sul settore abitativo mette in luce una serie di dati contrastanti. In alcune aree le case si vendono e comprano bene, ma per le imprese è difficile ottenere mutui per gli investimenti. Il paradosso dell'abitare in Friuli Venezia Giulia. Da un lato, come emerge dall'ultimo report dell'osservatorio ANCE, l'Associazione Nazionale Costruttori Edili, territori come quelli di Udine e Pordenone hanno in Italia tra i migliori indici di accessibilità per comprare o affittare, ovvero con minore incidenza della rata del mutuo o della locazione sul reddito, non conteggiate nello studio Trieste-Negorizia. Allo stesso tempo, però, nei primi 9 mesi del 2024, i nuovi mutui erogati alle imprese per investimenti in edilizia residenziale segnano un meno 24%, uno dei dati peggiori del paese, dove la media è del meno 10%. Lo stesso dicasi per i mutui alle famiglie per comprare abitazioni, meno 10%. Fa peggio solo il Molise, mentre in Italia c'è una ripresa, più 0,7%. In alcuni territori il basso prezzo a metro quadrato fa sì che ci sia più domanda che offerta, commenta Marco Bertuzzo, presidente regionale dell'ANCE. Se il costo per costruire è uguale a quello di vendita, chi deve investire non ha margini e non lo fa. Anche sulla scorta di questi dati, di recente ANCE ha formulato alla regione alcune proposte sulle future politiche abitative. Ne spiccano due. La prima, l'attenzione al tema della solitudine, non solo degli anziani, chiesti investimenti in soluzioni che promuovano relazioni e inclusività, come le coabitazioni assistite o gli spazi abitativi collettivi. La seconda, il progetto Case per l'Industria. I consorzi, le ATER, Confindustria, potrebbero individuare i siti idonei ad ospitare nuclei di residenzialità a supporto delle aziende, trasformando aree abbandonate ed immobili obsoleti in spazi vitali e funzionali. Gli alloggi ospiterebbero in via transitoria i professionisti da fuori regione, con funzionamento a rotazione. Occupazione per 6-12 mesi per dare modo alla persona di stabilizzare il rapporto di lavoro. Il periodo di ritorno dell'investimento per le casse pubbliche sarebbe di 4 anni. Udine, Lillo Montaltomonella, TGR, Friuli Venezia Giulia. Prevenzione cardiovascolare, un incontro organizzato dall'Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale, si svolgerà alle 17 in Sala Iace, con il titolo Avere a cuore la prevenzione a Udine. Ad aprire l'incontro sarà Silvio Brusaferro, che tratterà il tema dell'epidemiologia delle malattie cardiovascolari in Friuli Venezia Giulia. Tra gli altri relatori il professor Massimo Imazio, direttore della cardiologia udinese. Un protocollo d'intesa biennale in materia di sorveglianza ambientale per rendere più efficienti i controlli ed evitare sovrapposizioni tra le forze dell'ordine è stato sottoscritto tra la Direzione Marittima Guardia Costiera di Trieste, la Regione e l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente. Sentiamo di cosa si tratta. Monitorare e proteggere il mare di Trieste mettendo insieme energie, competenze e risorse di Guardia Costiera, Regione e ARPA. Stamattina nella sede della Capitaneria è stato siglato un protocollo d'intesa in materia di sorveglianza ambientale. Obiettivo comune? Ottimizzare la gestione delle attività di tutela delle coste e il controllo transfrontaliero dei rifiuti nel porto petrolifero più importante del Mediterraneo. Uno strumento che serve a coordinare gli interventi per prevenire incidenti ambientali, come i versamenti in mare e soprattutto ad evitare sovrapposizioni, ha detto il direttore marittimo del Friuli Venezia Giulia e comandante del porto di Trieste, il capitano di vascello Luciano Del Prete. Ad esempio, evitando di ricontrollare siti già monitorati. L'iniziativa di Respiro Biennale è sostenuta finanziariamente con 200.000 euro dalla Regione. A questo proposito, l'assessore regionale all'ambiente, Fabio Scocimarro, evidenzia che serviranno a comprare attrezzature adeguate, ma anche a favorire lo scambio di reciproche informazioni e a promuovere la vigilanza sulla criminalità organizzata nazionale e internazionale. Uno spazio importante dedicato alla formazione, con uno scambio tra il personale dell'ARPA, ha sottolineato la direttrice dell'ARPA Friuli Venezia Giulia, e quello della Capitaneria di Porto. Trieste, Francesca Jacquot, TGR, Friuli Venezia Giulia. Meno macro rifiuti lungo le coste d'Europa nel periodo compreso fra il 2015 e il 2021. Il calo è stato del 29% secondo il report tendenze dei macro rifiuti sulle coste europee 2015-2021, un documento del Joint Research Center della Commissione europea, a cui ha contribuito il Centro Nazionale Dati Oceanografici dell'OGS. Il report si basa su dati forniti dagli Stati membri dell'Unione Europea sull'abbondanza e tipologia dei macrorifiuti in spiagge selezionate in Europa. Questi dati sono stati raccolti seguendo le indicazioni della Guida al monitoraggio dei rifiuti marini nei mari europei, un documento che ha lo scopo di rendere i dati comparabili tra tutti i paesi. I risultati indicano nel periodo 2020-2021 un terzo in meno di rifiuti sulle coste europee rispetto al periodo 2015-2016, basandosi su dati provenienti da 253 spiagge monitorate. Si è rilevato che la plastica monouso è diminuita del 40%, mentre gli oggetti legati alla pesca sono diminuiti del 20%, così come i sacchetti di plastica. Tuttavia, nonostante le tendenze incoraggianti che evidenziano gli impatti positivi delle misure di mitigazione adottate tramite la legislazione UE, gli sforzi a livello nazionale e l'impegno pubblico, in molte aree europee l'abbondanza dei rifiuti rimane elevata, rendendo necessaria l'implementazione di ulteriori misure. Le 12:46 in questo istante, diamo uno sguardo alla situazione del tempo, abbiamo cielo coperto sul Friuli Venezia Giulia, queste le temperature registrate alle ore 11, a Trieste 9 gradi, a Udine 8, a Gorizia 7,5, a Pordenone 8,5, nell'area montana a Tolmezzo 7 gradi, a Tarvisio 3, a Sappada 1 grado, a Forni di Sopra 4,5, sul Piancavallo 1,5 grado. E ancora in quota abbiamo sul Lussari e sullo Zoncolan -1. Tornando sulla costa, a Grado e a Lignano 8. E vediamo le previsioni a cura dell'ARPA del Friuli Venezia Giulia per oggi. Cielo coperto su tutta la regione. Saranno possibili residue e deboli piogge sparse su Isontino, Carso e Trieste e foschie o nebbie sulla pianura e sul Carso. Il Friuli Venezia Giulia si trova lungo la rotta dei trafficanti di cuccioli di cani e gatti che parte dall'est Europa. Il Corpo Forestale Regionale lotta da anni contro le organizzazioni criminali di questo commercio illegale. Ne abbiamo parlato a Buongiorno Regione. Cuccioli acquistati per poche decine di euro e rivenduti con prezzi fino a 20 volte superiori. È il traffico di animali domestici che dall'est Europa passa per il Friuli Venezia Giulia, terra di confine. Un fenomeno che coinvolge organizzazioni criminali transnazionali e che dal 2010 al 2023 ha portato a sequestrare in Italia 7.230 cani e 92 gatti. Gli animali, privi di microchip e documenti sanitari, sono costretti a viaggiare in condizioni precarie, senza cibo né acqua. Tra i compiti del Corpo Forestale Regionale c'è quello di combattere questo traffico. Claudia Comelli, maresciallo del Corpo Forestale Regionale del Friuli Venezia Giulia. Ci è capitato nel 2012 un grossissimo sequestro, era il primo del Corpo Forestale Regionale, nel quale abbiamo intercettato due mezzi che provenivano dall'Ungheria con 400 cuccioli, quindi è stato un sequestro, è stata un'attività molto impegnativa, anche perché abbiamo trovato all'interno dei furgoni 5 cani che erano già morti, piccolissimi. Poi ci è capitato altre volte, è un fenomeno diciamo molto redditizio che coinvolge delle vere e proprie organizzazioni criminali. Il Corpo Forestale si occupa anche di verificare le segnalazioni di maltrattamenti di animali, situazioni di cuccioli tenuti in condizioni non idonee che si sono fatte più frequenti negli ultimi anni. Dal punto di vista emotivo è sicuramente difficile, perché ci troviamo in queste situazioni dove possiamo vedere gli animali che soffrono. Spesso capita di trovare anche degli animali morti o in brutte condizioni di salute. Però noi cerchiamo comunque di fare il nostro meglio. Livia Liberatore, TGR Friuli Venezia Giulia. La pagina della cultura, un grande autore della letteratura di lingua slovena in una serie di ritratti fotografici in mostra da oggi al Kulturni Dom di Gorizia. Il titolo è 108 Boris Pahor by Alenka Slavinec, l'inaugurazione alle 18. Tutte le fotografie sono state realizzate in poco più di 3 ore durante un incontro avvenuto il 10 ottobre 2013, quando lo scrittore triestino aveva 100 anni, e rappresentano solo l'avvio di un percorso attraverso la vita di Pahor e le sue opere, a cominciare dal più celebre romanzo Necropoli. Giorno del ricordo, oggi un incontro sui temi storici a Gradisca di Sonzo. Alle 18 nella sala del Consiglio Comunale lo storico Gianni Oliva parlerà sulla complessa vicenda del confine orientale 1914-1954. Oliva, autore di numerosi saggi sul Novecento italiano, è ospite dell'Associazione Culturale Apertamente. A Trieste si apre la 16ª edizione del Salone d'Autunno dell'Arte Triestina, che quest'anno si intitola Tirassegno Creativo. In Sala Xenia, in riva 3 novembre, saranno esposte fino al 25 febbraio le opere di una quarantina di artisti fra i più rappresentativi del territorio. La rassegna è allestita dal Centro Iniziative Culturali Z04. Oggi a Trieste la presentazione del libro Sotto Monfalcone, storia e itinerari nella città e nel territorio tra Timavo e Isonzo, a cura delle archeologhe Paola Maggi, Renata Merlatti e Gabriella Petrucci e di Luca Geroni, alle 18 nella Biblioteca Comunale 48 Gambini. Ce ne parla una delle autrici, Renata Merlatti. Si tratta di una guida un po' insolita, un po' libro di storia, un po' album fotografico, che racconta in modo originale Monfalcone è il territorio compreso tra i fiumi Timavo e il Basso Isonzo. Si tratta di un territorio dove la storia ha lasciato nel corso dei millenni una forte impronta che si rispecchia in un ricco e variegato patrimonio di beni, non sempre però noto e valorizzato. Quali sono quelli che possiamo riscoprire con il libro? Abbiamo scoperto che ci sono tantissime cose interessanti. Abbiamo scoperto che, ad esempio, Monfalcone ha un'importante storia medievale. Le sue mura medievali sono ancora visibili, ad esempio. Poi per noi archeologhe è interessante il fatto che nel libro abbiamo raccontato molto della parte romana del territorio, quindi tutte le ville che costellavano la costa monfalconese, che oggi non sono più visibili, da cui anche questo il titolo di questo Sotto Monfalcone. In questo libro proponiamo 7 itinerari di visita con 81 tappe, e suddivisi nei vari periodi storici, quindi a partire dall'età dei castellieri, quindi i vari castellieri del Carso, l'età romana, l'età medievale, l'età veneziana, con tutte le ville venete che c'erano nel territorio, alcune molto, molto importanti, avevano dei grandi territori e ormai la gran parte sono scomparse, oppure anche i siti industriali e le strutture belliche che comunque sono ancora visibili e visitabili nel territorio. Noi proponiamo 21 oggetti parlanti, sempre suddivisi per epoche. Sono oggetti conservati nei musei del territorio o nelle chiese e raccontano delle storie. Siamo agli spettacoli al Teatro Nuovo di Udine, approda Il Ministero della Solitudine, lavoro che nel 2023 valso il premio UBU ai registi Lisa Ferlazzo Natoli e Alessandro Ferroni. Il testo si ispira a una notizia di cronaca politica internazionale, ovvero la nomina nel 2018 in Gran Bretagna appunto di un Ministero della Solitudine, il primo al mondo per fare fronte ai disagi di chi vive da solo. Lo spettacolo è stato realizzato dalla Casa d'Argilla. La musica al Miela di Trieste per la stagione cameristica della Chamber Music saranno di scena stasera il quartetto Adorno e il pianista Roberto Prosseda. Programma intrigante naturalmente con 2 quintetti, nella prima parte l'opera 34 di Brahms, nella seconda una rara opera di Franck. L'inizio del concerto alle 20:30. E ora lo sport, pallavolo, nel massimo campionato femminile la CD Atal Massons ospita Novara, quarta in classifica, pronostico sulla carta chiuso, ma le friulane hanno dalla loro parte la forza di chi ha le spalle al muro. Ogni partita casalinga deve essere sfruttata per fare punti salvezza. Si gioca la tisana alle 20:30. Nel basket di A2 maschile si gioca ad Esio l'anticipo tra Cantù e Cividale, una collocazione che il calendario deve alla finestra per le nazionali, con 2 giocatori per parte impegnati. Sul campo di una delle grandi favorite della vigilia i Ducali possono tentare il colpo, anche se non ci sarà Mastellari e Miane è ancora lontano dalla forma migliore. L'inizio alle 20:30. Infine la pallanuoto, doppio impegno nel massimo campionato per Trieste, che vedrà la squadra maschile impegnata in trasferta contro la Roma Visnova, mentre la squadra femminile ospiterà il Rapallo, entrambe le gare alle 20. Per gli uomini è un ottimo momento, la squadra di Mirarchi è reduce da una lunga serie positiva e punta a consolidare il quarto posto. Le orchette devono invece cancellare 2 prestazioni al di sotto delle attese contro Plebiscito e Bogliasco. Alla Bianchi arriva il Rapallo e l'allenatore chiede concentrazione massima, serve un'ottima partita per recuperare il morale anche in vista della partita di Eurocup in programma sabato a Tenerife. Si tratta del ritorno della semifinale. È tutto per questa edizione che è stata redatta e condotta da Lara Zanni e Giampaolo Mauro, coordinamento tecnico di Viola Romanese e Tommaso Vinoni, ha collaborato in redazione Samantha Gon. Le 12:55, prossima edizione alle 15. Grazie per la vostra attenzione, buon pomeriggio. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.